La prima domanda che mi sono posto, diventando un figlio di Dio, è stata perché gli uomini sono perduti. In seguito, essa è stata, sempre, un interrogativo presente nella mia mente, fino al giorno in cui ho raggiunto le conclusioni che vado ad esporvi. La parola di Dio è sempre stata, ed è tuttora, oggetto di violenti attacchi, perfino in nome della morale. A tanti è difficile credere, e quindi accettare, che esista, nell'aldilà, un luogo di sofferenza eterna. Molti altri credono che, se esiste un luogo di tormenti, sia inconcepibile che un Dio buono riservi, per gli increduli, questa condanna. Ma non è possibile introdurre la rivelazione divina nella provetta della logica umana. Accettando che i pensieri di Dio non sono i nostri e che sono più lontani da noi di quanto disti la terra dal sole, è normale e giusto che ci siano difficoltà ad accettare i suoi piani. Vogliamo quindi esaminare l'eventuale esistenza di un luogo di tormenti e se questo sia concepibile con l'amore di Dio. Tutto ciò tenendo presente la sentenza di Gesù riguardo al destino eterno dell'uomo, secondo la quale agli uomini è impossibile salvarsi. Quest'opera la può compiere solo Dio, Matteo 19 e 26. Riguardo all'interrogativo, se esista, nell'aldilà, un luogo di tormenti, il testo di Matteo 25, 44, 46 non lascia dubbi. E questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. Qualsiasi interpretazione noi dessimo alle parole pene eterne e vita eterna, i posti e le situazioni restano. 2. Non tutti i morti, quindi, vanno nello stesso luogo e non tutti hanno la medesima sorte. Lo stesso Pietro riconosce due posti, quando nella sua prima lettera scrive: se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? 1 Pietro 4 e 18. Se accettiamo che la vita dei beati, o dei salvati, sia eterna, cioè senza fine, dobbiamo pure accettare che la punizione sia eterna, cioè che anch'essa non finirà mai. Alcuni sostengono, per negare l'esistenza di un luogo di tormenti, che la parola inferno non si trovi nella Bibbia. Ciò è vero. In greco, a questo termine, è attribuito il significato letterale di più basso, Efesini 4:9. Per questo, nella Vulgata, la traduzione latina della Bibbia, essa è tradotta con inferior. Proprio da qui deriva la parola italiana inferno. Sia Gesù che gli apostoli hanno però usato altre espressioni per indicare questo luogo. Espressioni che non annunciano nulla di buono e che non possono essere riferite alla vita eterna. Eccone alcune: punizione eterna, fiamme eterne, tenebre, condanna, pena, geenna. Alla luce della rivelazione di Dio, ecco, come sarà questo luogo riservato ai dannati? A 2 Tessalonicesi 1, 6 a 9. Questa è la dimostrazione del giusto giudizio di Dio affinché siate ritenuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Essendo Dio fonte di pace, gioia, serenità, luce e vita, qualità che fra le altre costituiscono l'essenza divina, ne consegue per logica che essere lontano da Dio significhi avere il contrario. Tormenti, inquietudine, buio, morte, quindi. B. Matteo 10 e 26. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna, Matteo 10 e 28. Gesù ha menzionato un corpo, per cui si soffrirà anche fisicamente con il corpo nuovo della resurrezione. Questa verità è sempre stata presente nel cuore dell'uomo. Giobbe disse: dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. Lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno, e non un altro. Il mio cuore si strugge dentro di me. Giobbe 19:26. Dobbiamo togliere l'idea comune, che le anime risorte siano esseri evanescenti, fluttuanti nell'aria. Abbiamo altri tre elementi, nel racconto di Lazzaro citato da Gesù in Luca 16:19-31. Alcuni la ritengono una parabola, ma queste non fanno mai riferimento a nomi di persone. Or vi era un uomo ricco, che si vestiva di porpora e bisso, e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro, che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E essendo tra i tormenti, nell'inferno, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito, per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita, e Lazzaro similmente i mali, ora. Invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi. Ma quello disse: Ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho cinque fratelli, affinché li avverta severamente, e così non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quello disse: No, padre. Abramo: Ma se qualcuno dei morti andrà da loro, si ravvederanno. Allora egli gli disse: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Ah, i perduti vedranno i redenti. Il ricco poteva vedere Lazzaro, che era adesso felice. I perduti sapranno che non potranno cambiare situazione. D. I perduti avranno il rimorso eterno di aver perduto la possibilità di essere salvati. Prendiamo in considerazione la seconda questione. Come possa un Dio buono mandare all'inferno delle persone per l'eternità? In merito è utile chiarire due aspetti. 1. Prima osservazione. È falsa l'opinione che Dio mandi all'inferno le persone solo perché non vogliono credere in Lui. Questo pensiero distorce totalmente il messaggio di Dio. Dio non manda e non vuole mandare nessuno in un luogo di perdizione. Anzi, egli vuole che tutti gli uomini siano salvati. 1 Timoteo 2:4. Giovanni nel suo Evangelo riassume il tremendo messaggio della punizione eterna con queste parole. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito o amato le tenebre alla luce. Giovanni 3:19. L'uomo è condannato perché avrà scelto, preferito o amato di più ciò che è negativo, piuttosto che il volere di Dio. Da notare che i perduti, secondo Giovanni, non saranno necessariamente delle persone irreligiose o comunque contrarie alla rivelazione di Dio. Esse avranno scelto o amato le cose di Dio, ma le avranno collocate al secondo posto rispetto al volere di Dio. Dio non è un essere permaloso che mandi in castigo la gente solo perché questa non vuole credere in Lui. L'uomo nascendo perduto per l'eredità ricevuta da Adamo è di per sé già lontano da Dio, conseguentemente ed inconsapevolmente quindi, già fin dalla sua nascita, egli è in cammino verso la perdizione eterna. Dio interviene misericordiosamente per offrirgli la possibilità di salvarsi, dandogli in diversi modi e in svariati momenti della sua esistenza la rivelazione del suo stato reale. Se l'uomo crede, è salvato. Rifiutando di credere, l'uomo non può affermare che sia Dio a mandarlo all'inferno. Ma, in realtà, grazie al suo rifiuto di credere alla rivelazione del giudizio divino, egli sceglie, volontariamente, di rimanere perduto. Giovanni 3:36. 2. La seconda osservazione, anche se a molti può sembrare assurda, è che le persone andranno in un luogo di tormento perché Dio, rispettando la loro libertà, le ama. Mi spiego. Con il seguente episodio ho testimoniato della mia fede, varie volte, ad una persona, senza ottenere un minimo interesse da parte di essa. Un giorno, dopo un'ennesima conversazione, gli chiesi: «Tu vuoi andare in un posto dove non ci sarà né Dio né Gesù Cristo?» «Certo», rispose tutto contento. «Bene», replicai, «non ti preoccupare, andrei in un posto dove non ci sarà Dio né Gesù Cristo. Dio rispetta la tua volontà. Solo sappi che questo posto si chiama inferno. Sì, Dio ha creato l'uomo libero ed egli non viola la sua libertà. Se Dio obbligasse l'uomo ad andare in cielo, compirebbe un atto di violenza, ma, soprattutto, mancherebbe d'amore. Si può obbligare una persona a compiere un'azione, ma non si potrà mai costringerla ad amare. Oggi Dio impone. Perché sovrano, alcune cose nella vita di un essere umano, come il sesso, il colore della pelle, il luogo di nascita e tutto questo per il nostro bene. Ma non può imporre a nessuno di amarlo e quindi desiderare di andare in cielo con lui. Se facesse questo, compierebbe il più grande atto di ingiustizia e di prevaricazione. Inoltre, è una manifestazione dell'amore di Dio non costringere l'uomo alla sua presenza con la forza. Molti, infatti, non potrebbero sopportarla. Sarebbe amore obbligare uno scarafaggio a stare alla luce? Per sua natura egli cercherà sempre le tenebre. Così l'uomo, che ora non ha una natura del tutto corrotta, vi sono ancora cose che ci ripugnano e sappiamo dare buoni doni ai nostri figli, Matteo 7,11, nell'aldilà esprimerà tutta la sua corruzione, tutta la sua malvagità, tutta la sua ripugnanza verso il bene e, allora, cercherà un luogo dove fuggire dalla presenza della santità di Dio. Se il peccatore in questa vita ha bisogno di nascondersi o di allontanarsi dalla presenza della santità di Dio, come nel caso di Pietro e di Isaia, Luca 5,8 e Isaia 6,5, come sarà il sentimento di coloro che, dopo la morte, mostreranno la loro totale corruzione? Io non riesco ad immaginarlo, ma dovrà essere veramente qualcosa di terrificante. Piuttosto che sopportare la santità, la giustizia e l'amore di Dio, fuggiranno nelle tenebre più oscure, e là sarà la loro eterna dimora. Oltre al dolore d'essere lontano da colui che è la vita, la pace e la gioia, il perduto avrà un eterno rimorso, comprendendo di trovarsi in quel luogo per un atto d'amore di Dio, lo stesso amore che lui invece ha sempre rifiutato, condannato e criticato. Dio è amore. Tale caratteristica lo contraddistingue in questa vita, come nell'eternità. Tutti coloro che rifiutano Dio in questa vita saranno perduti, ma non tutti soffriranno allo stesso modo. Le sofferenze dei dannati saranno proporzionate alla ribellione e ai peccati commessi sulla terra, così come i salvati avranno una beatitudine proporzionata alla loro sottomissione a Dio. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli, Matteo 5,19. In cielo vi saranno dei piccoli e dei grandi, ma tutti pienamente soddisfatti. 1 Corinzi 15, 40-42. All'inferno, analogamente, ognuno sarà pienamente tormentato. Allora Gesù cominciò a rimproverare quelle città in cui la maggior parte delle sue opere potenti erano state fatte, perché esse non si erano ravvedute, dicendo: «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida!» Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti che sono state compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero pentite con sacco e cenere. Perciò io vi dico che nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate con più tolleranza di voi. E tu, Capernaum, che sei stata innalzata fino al cielo, sarai abbassata fino all'inferno, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa esisterebbe ancora oggi. Pertanto io vi dico che nel giorno del giudizio La sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Matteo 11, 20-24. La disuguaglianza, la diversità, è un principio di Dio, non solo in terra, anche nell'aldilà. I perduti avranno delle pene proporzionate alle loro colpe. Non si tratta di vedere un inferno dantesco, ma piuttosto Dante ha tratto dalla scrittura spunti per la Divina Commedia, aggiungendovi ovviamente aspetti umani inesistenti. Forse qualcuno si chiederà come faranno i salvati ad essere felici nel vedere i perduti, soprattutto se sono i loro cari. In cielo vi sarà una dimensione diversa. Le cose non si valuteranno più con una mentalità terrena. Il passato sarà ricordato in un'ottica celestiale. Inoltre, i salvati che saranno nella luce non potranno vedere coloro che sono nelle tenebre. Per comprendere questo, è sufficiente cercare di notare qualcosa nel buio essendo nella luce. Nessuno può farlo. Al contrario, saranno i perduti a poter osservare i salvati, che vivranno nella luce. Stando al buio, infatti, chiunque può scorgere quello che vi è nella luce. Ancora una volta, la realtà terrena riflette quella celeste. Ho l'impressione che la nostra difficoltà ad accettare la punizione eterna sia dovuta anche al fatto che noi uomini siamo abituati a rappresentarci Dio nella veste di colui che invita sempre, perdona sempre, aspetta sempre, con una pazienza infinita. Questa opinione mette in ridicolo il carattere di Dio, condizionandoci nella lettura della sua parola. È vero che la scrittura ci presenta costantemente Dio come colui che invita, ma non sostiene che Dio inviti sempre. Vi sono anche momenti in cui egli pronuncia un basta, che chiude le porte, come nel caso del faraone, al quale, vista la sua ostinatezza, indurì definitivamente il cuore. Esodo 7:13, 9:12, 11:10. Il libro di Giobbe riconosce che Dio parli all'uomo due o tre volte, ma non all'infinito. Giobbe 33. Questa è stata la verità che mi ha indotto a decidere con sincere lacrime di arrendermi a Dio. A quelli che continuano a rifiutare la verità, Dio manda una potenza d'errore perché credano alla menzogna. 2 Tessalonicesi 2:11. Questa è la maledizione di Dio. Lamentazioni 3:65. Stiamo quindi attenti a non voler essere più pii di quanto lo sia il Dio della Scrittura, di non voler essere eccessivamente protettivi riguardo al nostro Creatore. Il risultato, piuttosto triste, che ne deriva, sarebbe quello di un Dio meno sovrano, incompetente, frustrato, insensibile e stoico. Ma il Dio dei cristiani è anche un fuoco consumante, Ebrei mezzogiorno e 29, è anche colui che dà in mano agli aguzzini coloro che non perdonano, Matteo 18 e 34, e che fa uccidere i suoi nemici, Luca 19 e 27, per cui è ali e terribile cadere nelle mani del Dio vivente, Ebrei 10 e 31. Terribile! Non è né auspicabile né desiderabile. Se qualcuno a questo punto dovesse ancora credere che Dio alla fine, perché è misericordioso, perdona tutti, rifletta. Egli infatti sta asserendo che vi siano altri mezzi di salvezza. Sappiamo per certo, infatti, che la salvezza sia possibile solo attraverso Gesù Cristo, il Dio rivelato. Isaia ci ricorda che quelli che scendono nella tomba non possono più sperare nella sua fedeltà. Isaia 38, 18. E Gesù affermò: il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati. Sulla terra, e non in cielo, non rimane che ripetere le parole che egli rivolse a Giobbe. Bada che la grandezza del riscatto non ti spinge a deviare. Giobbe 36, 18. Febbraio 2003. Ellero,